dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Ed è questo che vuole la sua gente. Le suggerisco di iniziare a pensare soltanto al suo lavoro, tenere per lei le sue opinioni e firmare qualche fottuto assegno. Scusateci, proprio in questo, anche gli applausi, grazie, molto gentile. Sì, vi vogliamo tanto bene, grazie, adesso basta per questi applausi. Nel frattempo vogliamo dirvi che Roma 2 e Genoa 1. Non è sicuro, dobbiamo attendere perché non è certo. Cioè? Alessio Romagnoli pare non abbia la pagina su Wikipedia, quindi forse il gol non è valido. Cioè, queste sono le... perché è troppo giovane. No, ma cosa c'entra? Cioè, c'entra. Cioè, allora, Alessio Romagnoli è quello che ha segnato il secondo gol, dobbiamo dirlo, perché sennò tutti pensano che sia un deputato di Grillo, quindi no. Lo conosco, quindi è uno di Grillo come minimo. No, classe 95, 18 anni, quindi è nato il 12 gennaio del 95. E fa il calciatore, non fa il deputato. Esatto, in questo caso, no? Perché fa il calciatore e ha appena compiuto perché, 18 anni. Perché non sa le parolacce? Non ha la pagina su Wikipedia, quindi non è detto che la federazione convalidi il gol di Romagnoli. Non si interessa di internet. Non esiste. Non può che fare il calciatore a questo punto. Fratello. Sul pallone verticale molto interessante di Bertolacci, che sta facendo una gran partita. Eccolo qua, questo abbiamo già fatto un commento di questa giornata, di questa partita, di questa serata, che in qualche modo ci porterà a vedere questa Roma che sta trionfando. Beh, non è vero, in realtà sta giochicchiando. Ma diciamo che è partita bene, poi come al solito ha rallentato, adesso poi sono rientrati in campo nel secondo tempo, è ripartita bene. Rigore di Totti, quindi finalmente rigore. Segnare. Regalino. Va bene, hanno fatto, vabbè, insomma, sì, c'è stato questo fallo di Bovone che ha toccato con il ginocchio la coscia di De Rossi. È stato un tocco omeopatico proprio della serie. De Rossi è volato giù per terra come colpito da un razzo missile. Mazinga ha colpito duro anche questa volta. Molto più netto quello di Boriello, cioè il fallo di Burdisso su Boriello. Comunque due rigori nel primo tempo, poi colpo di testa di Romagnoli che l'ha infilata proprio lì dove Frey non poteva arrivare, o forse poteva arrivarci, e ha fatto una vaccata. Non si sa. Però io volevo dire che ha raggiunto il buon Totti. Nordal, 225 reti in Serie A. Sì, vabbè, adesso finalmente. Chi è che non segna 225 reti? No, in Serie A? È che c'era questa menata che povero Totti, non ce la fa a raggiungere Nordal, non ce la fa, non ha ancora segnato. Quando ce la farà, non riesce a dormire. Insomma, tutte queste cose. Invece, niente, adesso è risolto. Abbiamo risolto almeno questo problema per quanto riguarda il buon Totti. Non sono stati risolti invece tutti i problemi per il buon Sheikko. No. Eccolo qua. E quindi questo, in settimana sono uscite fuori tra l'altro voci veramente vergognose. Lui si è un po' indignato dell'atteggiamento che hai avuto tu, Luca, tra le altre cose, che l'hai irriso e scherzato tra l'altro in trasmissione. Questo ha dato un fastidio. Questo ha dato molto fastidio. Chi? A Adnan Hadel Haref al Kakadumi El Shtewi. Sì, lui ha sbagliato l'ultima parte. Al Shtewi. Però sì. Lo chiamano, detto per gli amici, Al o Adel secondo me. Adel ci sta. Vabbè, comunque di fatto niente, lui si è un po' offeso perché è stato un po' maltrattato dalla stampa, e questa storia che lui vive su due dentro due un bilocale. Vabbè, ragazzi, se fossi stato monolocale avrebbe detto soltanto Luca Gattuso. Sì, avete letto tutte e due la stessa notizia, ho capito bene su questa cosa qua. Vabbè, però, ma soprattutto la notizia di questa settimana è che il fratello è stato beccato a un negozietto. Ti è rimasto in mente un questa supermercato cosa, no? Dedicato, no? A un supermercato. Ma perché dobbiamo sminuire l'attività commerciale del fratello? No, la figura dello sheikh. Hai ragione, no, non voglio questa cosa. Il fratello ha. Che cosa? Vende? Non vende catenine, vabbè, gioielli, anelli. No, ma guardate che non sono io che Irlande. Non sono io che mi preoccupo. In realtà c'è stata la dichiarazione di Baldini. Sì, il direttore generale della Roma, sì. Che dice? La situazione di Al Kadumi. Sì. Kadumi. Qualsiasi cosa ci sia non riguarda direttamente la Roma, ma l'ingresso di un nuovo investitore nel gruppo degli americani, che dall'inizio dicevano che avrebbero cercato nuovi investitori per dare più ossigeno alla società stessa. Così così il dirigente Franco Baldini, secondo il quale non siamo distratti né preoccupati per le voci che si rincorrono. Le banche, come al solito, perché chi è che è perplesso? La Unicredit. Esatto, dice le banche. Ha i suoi problemi perché. Sì, questa è perplessa in assoluto in questo periodo, l'Unicredit. Però voglio dire, perché è perplessa? Le banche, dice Baldini, è un problema loro, perché le banche fanno come San Tommaso. Specie di questi tempi. È vero, giusto, devono verificare, quindi hanno chiesto le garanzie bancarie al Kadumi. Al Kadumi è andato a prendere quelle. Scusa, hai avuto la ventata pugliese? Che sì, va bene, sai com'è. Le garanzie bancarie, e poi al Kadumi è andato a prendere quelle quattro collanine e ha detto: ce le abbiamo. O Sarracino, o Sarracino. Che brigando solo in faccia, ogni figliola sapiccia su vede passare. Una sigaretta in mocca, una mano tinta sacca, e se una smarciata la totalità. O Sarracino, o Sarracino, per l'uaglione. O Sarracino, o Sarracino, tutte femmine faccio sperare. E per le faccia, e per le cuore, stavo e fa l'amore. E mandrino, e tentatore. Guardate per far innamorare. E una bionda sa veleno, e una bruna se ne muore. E una calamita, questa femmina che la fa. O Sarracino, o Sarracino. Potresti con questo ritmo dare tutti quanti i risultati di oggi, compresa anche la classifica, ce la fai? Sì, femmina fa innamorare. Torino Palermo 0-0. No, con calma, non ti preoccupare, dai. Esatto. Torino Palermo 0-0, questa è la partita di oggi alle 12:30, poi Bologna Cagliari 3-0, Catania Inter ha vinto l'Inter 3-2, Fiorentina Chievo 2-1, l'Udinese è passata a Pescara 1-0 con conseguenze, poi vedremo quali, Sampdoria Parma 1-0, Siena Atalanta 2-0 per l'Atalanta. Questi risultati. Cioè, scusa, che conseguenze? Beh, sai. Ti dico solo una frase. Oggi a un certo punto alle 19:37 un allenatore di Serie A: la mia posizione, la fiducia della società è l'ultimo dei problemi, io non mi arrendo. L'allenatore, questo che ha detto Cristiano Bergodi, l'allenatore del Pescara, ore 19:37. Vabbè, poi dopo vediamo parliamo, cosa è successo nel frattempo. Vicinissimo al gol il Genoa, ancora una volta gran tiro, però comunque parata, nulla di fatto, siamo sempre lì, stanno cicciscando fino in finale, va a finire che c'è sempre il solito corner per il Genoa, che continua a battere non so quanti corner questa sera, è dall'inizio che continua a batterne in continuazione. Tu l'hai perso il conto, attenzione, tiro da fuori, sbananata, non ho ben visto da chi, adesso devo dire perché ci girerà e farà vedere la maglietta. Gira. Intanto inquadrano Goicoechea che sta tenendo su la panchina, mentre Stekelenburg palleggia con la palla come se fosse un giocatore di pallacanestro, poi la schiaccia con le mani. Sai quando i portieri schiacciano la palla con le mani per vedere se gonfia? Non ti dispiace, dico tipo LOL 824-0024 oppure 349, quello di prima era ovviamente il numero per telefonare in diretta, 349-2366-66 238. Scusa, sì. 349, ho dimenticato il 238. Mi dimenticato l'8, però va bene. Scusa, lo ripeto con calma, dai. 349-238-6666, giusto? Ho detto tutti, li ho detti tutti. Esatto. Questo mi riempie già di gioia in tutta questa serata. Nel frattempo però ancora nulla di fatto con questo a Roma. Perché a Pescara qualcosa è successo. A Pescara è arrivata l'ultima notizia che ci dice che è stato esonerato. Vabbè, tanto lui non si arrende. Lui ha detto, le ultime parole che ha detto, la fiducia della società è l'ultimo dei miei problemi, io non mi arrendo. Ok, poi non arrenderti un po' più in là, grazie. E l'hanno fatto uscire proprio direttamente dagli spogliatoi questa cosa. Sì. No, ma tu non ti continuare, tu non resisti. Guarda, hai presente i giapponesi? Ecco, tu continua a resistere, però potresti farlo un po' più in là, non so, vicino a un'altra città. Insomma. Esatto, sono nato Bergodi, l'allenatore del Pescara, si vocifera che potrebbe rientrare Galeone in panchina. Sai, ma Galeone, dai, quello è il calcio spettacolo come Zeman, sì, no? Certo. Tutti avanti, tutti indietro, gol, fantasia. Tutti sugli spalli. Tutti giù per terra, tutti quelli in coppa, basso, tutti quelli a basso in coppa, tutti quelli a sinistra. Esatto. Galeone, tra l'altro, noi l'abbiamo già intervistato. Sì, no, Galeone era quello che mentre noi gli parlavamo guardava la partita del Milan. E mentre noi guardavamo la partita del Milan, noi ascoltavamo il traffico, come adesso. Dai e vai. Strade in diretta. Tipo Buonasera dalla redazione di Strada in Diretta. Nelle Marche, chiusa la 14 Adriatica tra Pesaro e Fano verso Ancona, tornerà percorribile alle 6 di domattina. Sulla 10 Genova 20 miglia ci sono code a tratti per il traffico intenso in direzione di Genova tra Renzano e l'innesto con la 26 dei trafori. Mentre al sud, sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, ci sono rallentamenti per incidente tra Tarsia e Torano verso Reggio. E sempre sulla 3 rallentamenti per lavori all'altezza dello svincolo di Bagnara Calabra in direzione di Salerno. Infine a Roma ci sono difficoltà di circolazione per una fuga di gas in piazza Giuseppe e Gioacchino Belli. Sono in atto deviazioni al traffico. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. E se avesse sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Non so se tutto è perduto, ma in questo momento l'unico che sta perdendo è il Genoa. Lo diciamo per tutti quelli che si sono messi soltanto in questo momento all'ascolto e che hanno perso, tra l'altro, tutto il nostro inizio frizzantino, ma che però è del tutto inutile. Diciamo anche il tempo, siamo al 29esimo minuto, Genoa tutto avanti, la Roma un pochettino, come si dice in gergo tecnico. Scusa, sul mio televisore fa 28 minuti. No, è 29. Devi andare avanti di uno. Devi sempre andare avanti di uno. No, perché quando c'è zero. No, non importa, non importa. Mi fido. Ti parlo di una regola cronometristica. No, ma siamo al 30esimo in questo momento, Roma 2, Genoa 1. Andiamo a spanne, insomma, la regola cronometristica. No, è questo. Vai tranquillo e sereno. No, tu stavi dicendo quello, cioè la regola cronometristica e andiamo a spanne. Andiamo a spanne, sì, spannometri. Diciamo la regola cronometristica, ma manca un quarto d'ora più tutto recupero, il Genoa ci crede, ma anche la Roma ci credono tutte e due, e avanza Torosidis sulla sinistra, risultato 2-1 per la Roma. Ma via, parliamo di sci. Di sci? No? Sì. No, che storia, mi fai una faccia, scusa. Luca, devi darmi delle certezze. No, perché c'erano i tifosi della Luparense che volevano 20 secondi di gloria. Ma no, quando? La Luparense è campione d'Italia di futsal. Come campione? Hanno battuto 3-1 in finale il Cogianco. Secondo me non sono campione d'Italia. Sì, te lo dico. 3-1, hanno battuto il Cogianco. Vabbè, guardate ragazzi, mettetevi d'accordo prima di darmi le notizie, perché sennò poi dopo diventa poi problematico. Nel frattempo la cosa interessante è che è successo qualche cosa, è successo che c'è una manifestazione sull'Etna, e in questo caso, e concentriamoci su questo argomento, e parliamo direttamente con Giorgio Curtoni. Pronto Giorgio? Pronto? Possiamo darci del tu? Certamente. No, ecco, perché sennò, nonostante tu sia un architetto che è legato in qualche modo a questa gara di sci, raccontaci bene, perché siamo un po' increduli di fronte a tutto questo. Stiamo parlando di un 27esimo campionato italiano di sci per architetti, giusto? Architetti ingegneri. Ma non c'è competizione fra gli architetti e gli ingegneri? Tanto per cominciare, per essere precisi, 27 ne avete fatto voi architetti che siete avanti. Noi ne abbiamo fatti 27. 21 gli ingegneri. 21 gli ingegneri. Questo per capirci, no? Ecco, allora, racconta un po' bene, com'è questa storia che vi è venuta un po' in mente? Ma è nata come una scommessa. Sì. Dal penultimo campionato. Tra architetti, tra l'altro. Tra architetti, e una sera è nata così, insomma, abbiamo detto: perché non fare una cosa un po' estemporanea e fare un campionato sull'Etna? Sì, sì. Perché ci siamo messi un po' tutti a ridere, perché sull'Etna è difficile collegare il discorso sci con un vulcano e il mare a vista d'occhio. Cioè, tranne l'Islanda, tra l'altro, c'è proprio un problema: vulcano, sci, neve, e poi voglio dire freddo, ghiacciaio, queste robe qua, no? In Islanda succede, ma ecco, lì meno, ecco, diciamo. Sì, no, infatti, anche perché lì dagli aranceti si passa alla neve, insomma, in meno di mezz'ora. Ma facci capire, scusa Giorgio, c'era qualcuno che sapeva che c'era la possibilità di fare delle piste? Sì, il nostro anfitrione, che è l'architetto Cunsolo, ci spiegava appunto che dopo l'ultima colata lavica che aveva distrutto gli impianti, si erano impegnati a ricostruirli e lui aveva promesso che avrebbe fatto, una volta ricostruiti gli impianti, avrebbe fatto il campionato. E questa sfida è stata portata avanti e possiamo dire che è stata vinta, perché è un campionato bellissimo. Sì, nel frattempo tu per che squadra tifi? Ma io non sono molto tifoso di calcio. Però allora, ciao. Però... No, stai lì. scherzavo. Però noi siamo invece, anche noi non siamo tifosi di calcio, ma siamo costretti dalla sorte, dalla ingiusta dagli eventi. Dalla sorte di Fingarde e Satolla a dover dare delle indicazioni anche su quello che sta accadendo in campo in questo momento. Roma 2, Genoa 1, però espulsione di un giocatore del Genoa. Esatto, c'è stato calcetto vietato fra Kučka e Totti, e Totti sta andando ancora a riprendere Kučka. Il problema è che l'arbitro Gervasone ha ammonito sia Totti che Kučka, peccato che Kučka fosse già ammonito, quindi si è beccato il cartellino rosso dell'espulsione. Quindi Genoa in 10, 2-1 al 34esimo, qualche calcetto di troppo fra i due, cioè fra Kučka e Totti. E Totti ne ha approfittato, mentre l'altro doveva andare a uscire fuori, è andato lì, ha detto vabbè, ha detto qualcos'altro, cioè stava di nuovo un po'. Vabbè. Comunque niente di fatto, sai quelle cose che succedono nel calcio, niente, cioè, quelle cose che marginali. Noi invece torniamo a noi, questa vostra discesa sull'Etna, no? Dall'Etna o con l'Etna, sì, in questo caso. Sì. La gara di sci, giusto? Di slalom, sì, gigante, se ho ben capito, giusto? Sì, allora no, sono tre gare, state tre gare, uno sci nordico, la gara di fondo sulla distanza di 5 km, la gara di slalom gigante e la gara di sci alpinismo. Di sci alpinismo addirittura? Sci alpinismo. Con le pelli di foca le fate? Esattamente. Ma dai. Senti, ma nello slalom gigante chi è che fa le linee migliori? Questa si capisce, no? Questa è bellissima, la teniamo buona. Scusalo, non voleva farlo, però l'ha fatta. Le linee migliori le fa chi è più bravo, ovviamente, chi è tecnicamente più dotato. Sì. Ecco. Però sì. Non è detto che chi fa la linea migliore sia anche più veloce. Ma c'è anche lo snowboard? C'è anche lo snowboard. Sì, perché anche voi avete aperto i giovani in questo modo. Ah, pure lo snowboard c'è? C'è anche lo snowboard, i praticanti sono pochi. Ma comunque, questo campionato italiano lo fate solo sull'Etna o ogni anno vi spostate? No, ogni anno ci spostiamo un po' in tutte le stazioni d'Italia. Ma l'eruzione l'avete vista in questi giorni? Perché dicono che... Sì. Ah, davvero? Guardi che alla fine della gara di fondo il vulcano si è messo a far rumore, esplosioni, e infatti abbiamo visto, si è coperto tutto, è diventato tutto nero. Cioè, poteva essere visto anche come un sospiro di sollievo, era la fine della scala della gara di fondo. Polvere vulcanica. Sì, ovunque, tra l'altro. Ovunque. E voi avete pensato, ma che bravi sti organizzatori con gli effetti speciali, invece no. Sì, no, appunto, magari l'avessero fatto apposta. E invece no. Chi ha vinto? No. Possiamo dare dei vincitori? Sì, certamente. Allora, fra gli architetti ho vinto io. Ecco, ma no, solito nepotismo. Ma vabbè, dai. Ma no. Curtoni, dai, sappiamo vai, come vanno. Curtoni! Dai, Curtoni, no, si sa come va ste cose, no, dai. Vabbè, dai. È tutto magna, Curtoni. Ci sono le classifiche ufficiali. Poi? E poi fra gli ingegneri ha vinto l'architetto l'ingegner Zazzi. Con cui tu sei parente, cos'è? Fratello, cugino, cos'è? Tuo parente? Siamo solo amici. Siamo amici. Dai, Curtone, senti, no, a parte gli scherzi di tutta questa vicenda, allora, gli ingegneri, ecco, quanti sono però che partecipano? Perché potrebbe essere una cosa molto a conduzione familiare, invece... No, quest'anno quanti siete? Siamo stati circa un 130-140. Architetti? Fra architetti e ingegneri. Okay. Siamo sempre un po' di più gli ingegneri. Gli architetti sono un po' così... Un po' meno numerosi, un po' meno caldi su questo argomento. Anche perché poi si scioglie la neve. No, senti Curtoni, dal punto di vista dell'organizzazione, cioè voi avete degli alberghi convenzionali, cioè un architetto, un ingegnere che viene lì a fare questi due o tre giorni di sci, a fare le linee, quanto viene a spendere complessivamente? Che te frega? No, così voglio sapere. Cioè questi poi quando vado a fargli fare il progetto mi tirano giù i soldi. Non fare delle rivendicazioni adesso, però. No, è perché poi io gli pago, quindi sono spese modiche, sì, appunto. C'è il viaggio che però è andato per tempo, insomma. E poi c'è l'albergo convenzionato. Vabbè, via, con un monolocale va via tutto lì, tranquillo, per tutti quanti, va bene. Grazie architetto. Lei preferisce campione oppure architetto? Va bene, architetto è uguale. Voi avete un architetto campione, insomma, in questo caso. Avete coppe o medaglie per i vincitori? Abbiamo coppe 6 medaglie, quindi è stato un problema portarle in aereo perché ne ho vinte 6. Certo. 20 medaglie? Scusa, ma Giorgio, non è che adesso tu vai nello studio, il tuo studio, tra l'altro, perché ne hai io. Okay? Il mio studio è tappezzato di coppe. Ma tu entri dentro e fai il ganassa domani, ce l'ho capito? Cioè... Certo, assolutamente. Non sarebbe altro. Curtoni, no, le stai a fare? Le coppe le mettiamo in stiva e portiamo come bagaglio a mano? No, le ho messe un po' in stiva, nella sacca degli sci e un po' bagaglio a mano. Ah, nella sacca degli sci, tendi di confondere un po' le acque. Scusa, diciamo. ma non è organo, cioè oggetto contundente. Ma cosa, la coppa? Sì, aggredisco la hostess con la coppa. Di dai, che no. Orrore. Grazie, vabbè, grazie campione. Prego. Vabbè, dai. Curtoni è così. Curtoni è veramente un mito, una leggenda, no? Ecco, vabbè. Speriamo che poi adesso si distrae. Diciamo un po' Curtoni, si distrae. Lì si mette lì, va a fare tutte le domeniche. Pronto, Curtoni, hai messo a posto il bagno? No, sono a sciare. Ma cosa vuol dire sono a sciare? Scusa, devo allenarmi, c'ho la gara. Scusa, che modi sono? Veramente. Comunque, non vogliamo entrare nel merito di campionato di italiano di ingegneri e architetti, hai capito? Ma mica tutto è finita, perché abbiamo anche di peggio. Abbiamo anche di peggio. Non vogliamo. Ma poi c'è un velo di. Non lo so, No, di cosa? No, dillo, no, abbi il coraggio dei tuoi pensieri. No, perché poi... Ma un po', questa sensazione, c'è un velo di, no? Cioè, facciamolo tra di noi, la lobby, no? Cioè, capito, facciamo una cosa, intanto attenzione perché la Roma è ancora in attacco, ma nulla di fatto, no? grande difesa, barricata ormai del Genoa, tiro gol. Esatto, infatti. Non direi contropiede, tiro gol. Non direi tanto barricata, nel senso che il Genoa ci crede ancora, 2-1, 39esimo minuto, però il Genoa scatta... Adesso proprio il 40esimo, il Genoa è in 10 per l'espulsione di Kučka, tra l'altro pedina fondamentale del centrocampo rosso-blu. Poi, ma li sentiamo quelli che sono allo stadio dopo? Perché secondo me sono discretamente arrabbiati dopo la partita di stasera. Ma perché, scusa, cosa c'è di male? Scusa, fra Rigorino, che diciamo è abbastanza regalato, poi l'espulsione di Kučka, secondo me sono abbastanza arrabbiati i tifosi del Genoa questa sera. 39-25 sulla tabella, Genoa 1, Roma 2, palla Totti con le sue belle scarpette nere, i suoi bei parastinchi visibili. Totti c'ha le scarpe non sponsorizzate, hai visto? Secondo me lui ha delle scarpe, è all'astrico ormai, non sa più. Tra l'altro lui voleva farsi un bilocale, ha chiamato sempre il suo architetto, esatto. Che era sempre a sciare. Che mali sono? Quindi possiamo dire che Curtoni è l'architetto di Totti? No, adesso non vorrei. La Roma in attacco, palla filtrante in area, ma niente. Sì, buonanotte. Se palle filtrante filtrano, guardate, voi pensavate, ecco, vabbè, stasera ha raggiunto gli architetti, no? Ha raggiunto veramente gli architetti e gli ingegneri. Architetti, ingegneri, esatto. I campioni di sci, insomma, sull'Etna, tra l'altro, voglio dire, una cosa strana. No, ebbene, ne succedono ancora di altre. Per esempio, c'è, non so se di peggio o di meglio, però ne succedono delle altre. Sì. Ci sono delle maratone fino a qua, grande sforzo, epico, cioè Dorando e via dicendo, tutte queste cose che possiamo metterci a fianco, però c'è una maratona solo di consulenti del lavoro. Ah. Consulenti del lavoro, non fare con questa no. Perché quella sembra quasi un ciao, un giudizio. Figura, ecco, massimo rispetto. Ecco, però in tutti questi consulenti del lavoro c'è un'unica atleta. Un'unica consulente? Una consulente che ha corso, no, ce ne sono molte di più di consulenti, ma ce n'è una sola che ha corso, che è Raffaella Poroli, che abbiamo qua al telefono. Pronto, Raffi, come stai? Sì, grazie, bene. Un po' stanca, ma siamo... Certo. Immagino, hai fatto la maratona, scusa. Mezza maratona, il campionato era per la mezza. Ah, mezza. Vabbè, allora niente, arrivederci. Non ci interessa, allora, ciao, vediamo via. No, vabbè, Rafa, resta con noi, Rafa. Mezza maratona, insomma, che tu hai fatto, ma che tu con questo comunque sei rimasta sola. Cioè, eri l'unica donna, ho capito bene? Sì, l'unica donna consulente di lavoro. Poi dopo ce n'erano altre 300 a farle, però insomma. Ma che cosa? Ma perché si fa una maratona, mezza maratona dei consulenti del lavoro? Come, cioè, è la passione chi ha ideato, questi colleghi di Piacenza che sono stati bravissimi, hanno organizzato questo incontro, che doveva essere un incontro per tutti al di fuori delle solite aule dove ci si ritrova per riunioni, convegni, uffici. Ma Rafa, ma tu parteciperesti a una mezza maratona di geometri? Geometri no. No, no, Geometri, ma che scherzo? Oh, ma cosa stai dicendo? Ma stai scherzando? Ma è la mezza maratona che conta, non con chi la fai, scusa. Vabbè, guarda. Eravamo in tanti oggi, dai. Ci sarà stato sicuramente qualche geometra. Sì, ma si chiama lobby, cioè, hai capito? Si chiama è un circolo vizioso, tra l'altro, non lo so, però può darsi. Però sicuramente è un circolo chiuso. Ne parleremo però tra poco, dopo la pubblicità, perché questa è Radio 24. Dai e vai. Alle Fiere di Parma dal 2 al 10 marzo torna Mercante in Fiera Primavera, mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. www.mercanteinfiera.it. Dai e vai. Non è solo calcio. Raffaella, una mezza maratona soltanto coi pubblicitari? Ma è solo una scusa per poter trovarsi a correre. Ah, ho capito, ho capito. A me piace correre. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Con quindi chi c'è non è importante. Ah, meno male. Ecco, questo è già qualcosa. Nel frattempo ti posso dire che c'è un gol. Vecchi, 3-1. 3-1. A Roma. Tu tifi per Inter. Perfetto. Vabbè, è andata bene oggi, eh. Oggi è tutto bene, gran felicità. Molto bene. Cioè, campione d'Italia della mezza maratona dei consulenti del lavoro, poi vinto col Catania 3-2, recupero. Infatti ho detto una grandissima giornata, esatto. Oggi, non si poteva dire di meglio. Sì, com'è andata oggi però la mezza maratona? No, è andata bene, nel contesto mi è andata benino, nel senso che volevo fare un tempo sicuramente migliore, ma arrivo da 15 giorni di influenza. Aia. E quindi è stato tanto arrivare. Qual è il tuo record personale? 1,43. Un'ora e 43, non sono un grande campione, però, però fra i consulenti di lavoro secondo di oggi. Sì, ma diciamocelo chiaramente, i consulenti di lavoro sono dei carciofi, dai, che te frega, dai, fai una bella figura tu lì, dai, tranquillo. Ma geometri però. Ma certo, c'era su quei geometri. Cosa ti ha fatto i geometri, scusa, eh? Vabbè, non dai. So. Vabbè, però una mezza maratona dei carpentieri allora, dai, no, sì, prendiamo una scusa e andiamo a fare anche quella. Così. Ma lì è nata sostanzialmente perché siete tutti amici e a un certo punto ho detto: "Cosa facciamo? Una mezza maratona, sei matta io?" No, chi è che e quindi vi siete per ritrovarvi avete deciso di fare mezza maratona. L'anno scorso ho visto la prima audizione come consulenti del lavoro, campione italiano l'anno scorso. Quanti siete? In Italia a partecipare. Oggi eravamo in 11 totale tra maschi e femmine. Allora è stata maschi e una donna. Ho capito. Quindi 10 maschi e una donna. Okay, va bene, grazie Raffa. Inizio stagione. Penso che magari se fosse più avanti qualcuno in più ci sarebbe. Certo, ma questo è soltanto l'inizio. Grazie Raffa, starci bene. Grazie a tutti, ciao. Saluta il geometra tutti i tuoi amici. Grazie, ciao. Dai e vai ha avuto la campionessa italiana di consulenti del lavoro di mezza maratona. Allora. Dove potete sentire la campionessa italiana di mezza maratona dei consulenti? Solo a Dai e Vai, solo a Radio 24. Ci sarà un motivo, però voglio dire, non era una campionessa. No, com'era campionessa? Campionato italiano? Femminile, perché femminile, è l'unica, esatto. Beh, vabbè, adesso non è che dobbiamo sempre dire tutto. No, io volevo sapere, no? C'è questa cosa. Campionessa italiana. No, grazie Luca Cancellara di averci proposto questo servizio, che voglio dire, no? Cioè, bella questa cosa. Cioè, allora, c'è un titolo. Non è solo calcio, però cerchiamo di dare qualche senso a tutto c'è ciò. C'è un titolo, ok? Puoi partecipare, non partecipare. Partecipi, cavoli tuoi, io partecipo, vinco, anche e ti porti a casa anche se sono da solo e sono campionessa italiana, sì, hai capito? Sono cose belle però, cos'è, sospiri? Scusa. No, niente, il caldo, sai quando corri, fai la mezza maratona, viene caldo, sudi, sì, 3-1, la partita è finita, Roma 3, Genoa 1, siamo nel recupero, in questo momento un fallo su De Rossi, contro Boriello, e Boriello dice qualcosa a De Rossi, non lo so, ecco, vediamo un attimo, ha sigillato. Tanto si conoscono tutti lì. Sì, perché Boriello ha giocato nella Roma. Certo. Ma davvero? Sì. Questa notizia? Sì. Però. Infatti non ha gioito sul rigore. No, questa manfrina patetica. Ha pianto. No, segnare tre reti per la Roma. No, allora non era fallo di. Intanto Moretti recupera una palla nella zona di difesa. Siamo a 2 minuti e mezzo al termine di questo recupero. 46 minuti e 30 sui 49 che si devono giocare per quanto riguarda Roma-Genoa 3-1. Sì, perché adesso me lo chiudi così. No, era per capire come sta capire che cosa, no, capire. La partita ormai dovrebbe essere già finita, no? Invece c'è ancora un bel 3 minuti, cioè, guarda che in 3 minuti può succedere di tutto, guarda in 7 minuti ha segnato 3 gol una volta, sì, me lo ricordo ancora. Me lo ricordo ancora anche io, però guarda, ne parliamo, no? Antonio Felici. Buonasera, pronto? Ragazzi. Senti, in tre minuti può succedere di tutto, no, in questa partita? Beh, in questa partita non credo. E come mai ti è venuta questa sensazione? Cioè, un po' così, eh? Vabbè, insomma. Beh, la sto seguendo, diciamo che con il Genoa in 10 e l'inerzia che va verso la vittoria della Roma, insomma, adesso sì. Due minuti in questo momento. Insomma. Vabbè, insomma, però non c'è trippa. Insomma. Sai cosa si dice qua in redazione? Si dice, bastava mettere un allenatore sulla panchina della Roma e i risultati arrivavano. Beh, insomma, diciamo è un po' ingeneroso nei confronti di Zeman. Da un certo punto di vista, però, potrebbe essere vero, non per quanto riguarda chiaramente l'impostazione tattica, gli allenamenti e così via, ma per quanto riguarda i rapporti con la squadra, perché evidentemente cioè, è sotto gli occhi di tutti che insomma il gruppo, a parte Totti e qualche altra eccezione, ha rigettato completamente Zeman, per cui è bastato mettere a punto un allenatore qualunque che distendesse un po' i nervi, diciamo così, dei giocatori, perché la squadra tornasse ad esprimersi più o meno regolarmente. Ma l'ha rigettato perché? Perché li faceva faticare, li faceva lavorare, li faceva... Nel calcio queste cose capitano, può succedere che un tecnico che abbia idee molto precise, diciamo che sia molto convinto insomma del suo tipo di calcio, che non è un calcio molto flessibile come quello di Zeman, perché sappiamo che da quando allena pratica il 4-3-3 con certi movimenti, però, e così via, possono esserci dei rigetti, diciamo. Però è molto interessante. Zeman è accaduto anche altre volte. È interessante che poi quando si parla con i giocatori tutti quanti guardano Zeman dicendo con Zeman poi si può esaltare il mio gioco, tutte queste cose. Guarda, i giocatori li conosciamo molto bene, insomma. Ma io meno. Tante volte sono piuttosto ipocriti, diciamo, come un po' tutti. Qua e là. Come un po' tutti diciamo i protagonisti del mondo del calcio. No, devo dire che nella Roma ci sono sicuramente alcuni giocatori che devono tantissimo a Zeman, no? A certo. Parte Totti, che ha sempre avuto un rapporto particolare con lui, ma penso ai giovanissimi, per esempio Marquinhos, che è letteralmente esploso grazie a Zeman, lo stesso Romagnoli, che stasera ha segnato un gol importantissimo e a cui Zeman ha dato moltissima fiducia. Certo. Però gli altri, ecco, se penso ad altri giocatori, poi se vuoi possiamo anche fare i nomi. Scusa, c'è un momento di calcio cuore in questo momento. È vero, le creature, i bambini che vanno a abbracciare papà con la maglietta. Con la maglietta, eh? Oh, dove vai? No, dai. Sono 225, esatto. sono veramente tanti. Ed ecco, Babbo Totti con i due figli. Certo. Cioè, il figlio e la figlia. Pensare che ce lo ricordiamo già, no? Cioè, quando sono nati ce li ricordiamo. Sì. Vabbè, cos'è? Sta ferma per le inquadrature, non ho capito. Sì, perché devo fare le foto. Probabilmente i figli stanno dicendo papà sei sudato. Posso dire che è stata una scena piuttosto brutta questo fatto che i bambini sono rimasti lì abbracciati fino a quando non hanno smesso di fare le foto. Cioè, questa è un po' bruttina come scena. Però vabbè. Senti, Antonio Felici, noi siamo qua non per raccontare, ma se proprio vogliamo raccontare, lo raccontiamo quello di Totti, ma lo accantoneremo perché tanto le racconteranno un po' tutti. Ma per parlare un po' da questo tuo libro Da Porta a Porta. Gli ultimi dribbling dei furbetti del calcio. Quindi, parla di cose, diciamo, molto che noi umani abbiamo visto, ma che non abbiamo mai praticato, diciamo. No, questo. certamente non le abbiamo praticate né io né voi, diciamo. Però purtroppo molti protagonisti del mondo del calcio le hanno praticate. Io devo dire che a me piacerebbe molto di più occuparmi, ecco, dei record di Totti, per esempio, certo, di tanti altri fuori classe straordinari. Però purtroppo nel calcio c'è anche un lato oscuro che io da un paio di anni diciamo vado un po' scandagliando, perché ecco, voglio ricordare che il libro che tu hai citato Da Porta a Porta è la seconda parte di una inchiesta molto più lunga e ampia, che è cominciato un libro precedente che si chiamava Le pagine nere del calcio, sì. E che cominciava a raccontare gli scandali del calcio a partire dal famoso titolo revocato al Torino del 27-28 con lo scandalo di Allemandi, passato alla storia come lo scandalo di Allemandi. Ma il fatto, insomma, quello lì non è stato gravissimo, è stato tolto al Torino. Sì, No, no, però a parte questo, la cosa che mi interessa di questo libro qua è un po' sì. quello che tu metti poi nella parte finale, no? Cioè, esatto, che sì. è un po' la cosa forse più interessante di tutto quanto, perché ormai sul calcio a scommesse, sugli scommettitori, sui sì. giocatori, ormai sono state scritte tante cose, però mi sembra che è uno dei pochi che invece approfondisce, come dire, il lato B, no? dei calciatori, perché adesso tutti i calciatori guadagnano tanto, non Totti stavo per dire, guadagnano tanto, guadagnano anche Totti, guadagnano tanto, in più scommettono, in realtà quelli che scommettono sono quelli che guadagnano poco, ma che non è vero, perché poi scommettono anche quelli che guadagnano tanto, ma la cosa più interessante è che c'è un lato B che nessuno parla, perché pochi parlano del fatto che c'è stato qualcuno che ha rifiutato di scommettere. No? Cioè, quando va bene, quando va bene non dicono niente, quando va bene è omessa denuncia, no? Ecco, il problema però sapete qual è? Che io diciamo, proprio per dare un segno di speranza dopo centinaia e centinaia di pagine di situazioni sporche, nere, eccetera, brutti scandali e così via, anche di morti, perché io nei miei libri mi sono occupato anche di doping, ho voluto chiudere, diciamo, questa inchiesta con un filo di speranza, no? Raccontando le storie di Farina e Pisacane, che sono stati praticamente gli unici due calciatori non famosi prima di questi gesti, ma diventati famosi per questo, che hanno denunciato i tentativi di combin delle partite a scopi, ecco, evidentemente di scommesse. Da quello che si sa in giro, la speranza è ultima a morire, ma è morta. Questo quanto la speranza è morta, esatto, è proprio quello che volevo dire, cioè che io avevo inserito questo capitolo finale nella speranza che le pagine bianche, diciamo, di Farina e Pisacane potessero rappresentare, diciamo, un nuovo inizio, ecco, se mi passi l'espressione. In realtà poi abbiamo scoperto che Farina, dopo aver denunciato, non ha più trovato in Italia una squadra disposta a farlo giocare ed è stato costretto ad andarsene in Inghilterra, dove adesso allena i bambini. E questo tra l'altro si spiega anche, conoscendo un po' il meccanismo perverso diciamo delle squadre italiane, soprattutto minori, cioè soprattutto quelle della Lega Pro e anche della Serie B, perché chiaramente quando si sparge la voce che un giocatore denuncia delle combine, e quando parliamo di campionati come la Lega Pro, che se voi guardate le classifiche, soprattutto quelle dell'anno scorso, sono quasi fatte tutte di penalizzazioni, vi rendete conto che un giocatore onesto difficilmente può trovare un posto. Ecco, però la cosa che mi ha turbato su Farina è sì. che ci sono le grandi squadre, vediamo le squadre medie, vabbè, possono decidere di non prenderlo, però le grandi squadre, cioè quelle che in qualche modo non voglio dire che hanno denari da buttare via, anche perché ne hanno buttati così comunque tanti, ma a prescindere, voglio dire, un gesto di questo genere sarebbe un gesto dal punto di vista dell'immagine fortissimo. Cioè, la pianificazione da pubblicitaria e d'immagine, di simpatia, diciamo un'operazione simpatia, potrebbe sicuramente far parte della strategia comunicativa dell'Inter, del Milan, della Fiorentina, non voglio dire della Roma, ma forse anche sì, della Juventus, di squadre importanti. Hai citato la Roma, no? Io personalmente, diciamo, in una delle più note radio romane dove mi capita di intervenire quotidianamente, avevo lanciato proprio alla Roma un'idea di questo tipo, perché io ricordo che Farina è un prodotto del vivaio della Roma, Farina è romano, cresciuto nelle giovanili della Roma. L'idea poteva essere quella, cioè proprio di ingaggiarlo, magari anche con uno stipendio diciamo molto contenuto, perché poi Farina non è un giocatore che guadagnasse al gubbio soldi, insomma, è uno da 50-60 mila euro l'anno, ecco, che in un grande club fa fuori coi palloni, insomma. Esattamente. E sarebbe stato un gesto da parte del club che lo ha cresciuto e l'ha portato bene o male diciamo nel grande calcio. Sarebbe stato un gesto veramente molto bello. Purtroppo la proposta è caduta un po' nel vuoto, però al di là della Roma sarebbe stato molto molto bello che un'altra squadra, esatto, giustamente dicevate voi, ma magari anche la stessa Federcalcio, per esempio, Lo stesso Abete ai tempi diciamo lodò il gesto, no? Lo stesso Prandelli lo convocò simbolicamente in nazionale, però magari un ruolo non sarebbe stato sbagliato darglielo, e invece tante chiacchiere e pochi fatti. Alla fine Farina lui è in Inghilterra, no? Sì, lui è alla Aston Villa, allenatore giovanile, esatto, della Aston Villa. Era alla Aston Villa. Mentre invece meno famosa la vicenda di Pisacane. È meno famosa la vicenda di Pisacane, ma la caratteristica interessante è che Pisacane è arrivato primo nella denuncia, sì, in questo piccolo campionato, nel senso che a livello temporale, prima ancora di Farina, aveva deciso diciamo di denunciare il tentativo di combin della sua squadra, parliamo sempre di Serie C naturalmente, però ecco che è successo e che il caso, questo anche per colpa di noi giornalisti, devo dire, non è stato assolutamente preso in considerazione dai mass media, è stato invece recuperato dopo, quando è scoppiato il caso Farina. Qualcuno si è ricordato che anche Pisacane, diciamo, e che fine ha fatto Pisacane? E dunque Pisacane gioca nella Ternana, continua la sua carriera, diciamo, onesta, ma lontana dalla luce dei grandi riflettori, però gioca senza eccessivi problemi, diciamo, almeno lui. Quindi è stato un po' più in ombra, però continua a giocare in questo caso. Esatto, beh, probabilmente perché il vero simbolo, diciamo, del giocatore che denuncia è diventato, sì, Farina. E quindi in questo caso. Ecco, sì. Ecco, vabbè, noi ti ringraziamo ovviamente come sempre per la tua disponibilità e per dare anche questi suggerimenti. Ricordiamo il libro Da Porta a Porta, gli ultimi dribbling dei furbetti del calcio. Antonio Felici, ovviamente noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti diamo anche una buona serata. Grazie a voi ragazzi per la vostra simpatia e alla prossima. Vai col traffico, Radio 24. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, nelle Marche è chiusa per lavori la 14 Adriatica nel tratto compreso tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona. L'autostrada tornerà percorribile alle 6 di domani mattina. In Lombardia sulla 8, la Milano-Varese, ci sono code per un incidente tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Mentre al sud, sulla 3, Salerno-Reggio Calabria, ci sono rallentamenti per lavori all'altezza dello svincolo di Bagnara Calabra in direzione di Salerno. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Watch this. Sei distratto, voglio dire, cioè, dico, ce la fai a dare la classifica o no? No, presentissimo. Beh, mica tanto, stai guadagnando tempo. No, diciamo, 59 punti il... Sentissimissimissimo! No, non è vero. Sono presentissimissimo! 59 punti la Juventus in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sul Napoli, poi... che ne ha 53. Stai muto, stai tranquillo, stai sereno, non ti preoccupare. Scusa, guarda, ti faccio preparare. C'è il Milan. Sì, no, ma aspetta, preparatevi la classifica, perché intanto io voglio parlare con Stefano. Stiamo parlando di Stefano Arisetti, che è del Genoa Club Sestri Levante. Pronto Stefano? Sestri Ponente, ciao. Ecco, abbiamo scritto Sestri Levante, vabbè, uguale, non ti incazzare, uguale. Dai, su, dai. No, intanto, cioè, sto riavvolgendo il mio striscione. Cosa c'è scritto sullo striscione, quello del club? Sempre presente, Sestri Ponente. Beh, poeti, bravo, poeti, bravo. Dentro, poeti. Anche perché dentro, vai. Se fosse stato Levante non avreste potuto farlo. No, perché sarebbe stato sempre... Allora, no, Genoa, scusa, sei Stefano. Dai, dimmi. Allora, in questo caso sarebbe presenza costante, Sestri Levante. Bravi, bravi. E vai, fratello, vieni. Senti, Eletti, da 1 a 10 quanto sei incazzato? 45. Sappiamo che quando si viene a giocare su sti cazzo di campi, ecco, è così. Eh no, ragazzi, cioè, no, no, è Campi che mi dà fastidio. A Campi non si può dire Radio 24. No, no, ma io ti dico, il problema è che il rigore dell'1-0 inesistente, questo l'abbiamo visto tutti anche da qua. Sì, okay? Sì. Ma voi eravate dall'altra parte, eravate a più di 100 metri. Sì, no, si è visto da qua, okay. Gente che la stava guardando a casa, certo, mi certo. Hanno bombardato a me, sì, come agli altri, scritto inesistente tutto quanto. Assolutamente. assolutamente, assolutamente. L'hai pareggiata al primo tempo e meritavi di essere in vantaggio al primo tempo, perché poi oggettivamente poi sappiamo come funziona, c'è un giocatore che gioca con la maglia della Roma, che c'ha il numero 10, che si sa che quando si viene qua è così, perché il fallo era, secondo me, io non sono né un arbitro né niente, ma la vedrò come tifoso, sì, è giusto il fallo giallo a Kuzka, perché fa la reazione, niente da dire. C'è un piccolo problema, che doveva essere rosso diretto a Totti per la gomitata, e giallo a Kuzka, e mi stava bene, e mi stava bene, perché Kuzka era già ammonito. Io non protesto per l'espulsione di Kuzka, protesto per il giallo a Totti, ok, tra parentesi, Kuzka era già ammonito. Venerdì abbiamo il Milan, il giocatore migliore che Stefano, abbiamo, poi uno le pensa tutte. Ah, cioè dici che c'è malignità in questa rosso? C'è malignità perché a Genova non abbiamo né una radio né un, né un giornale né niente che conta. A Milano c'è la Gazzetta dello Sport di vari emittenti, a Roma c'è il Corriere dello Sport, tutto quanto. Questa è così. Senti, ma Stefano, non contiamo niente noi, ma va bene così. Senti, volevo chiederti però una cosa, adesso, tu che da quanti anni che segui il Genoa? Io ho 35 anni, ho iniziato a 4 anni andavo allora, dammi la tecnica adesso per sbollire, perché adesso sei incazzato come una iena. No, ma io non sono, io guarda, non sono incazzato, perché il primo tempo del Genoa no, assolutamente, non posso essere incazzato, perché tecnicamente nel complesso la Roma è più forte, non lo scopro io, non ci vuole Stefano da Genova. Ma tu sei contento, insomma, di come ha giocato il Genoa? Sono contento della prestazione, sì, perché comunque abbiamo preso un gol su rigore inesistente, uno su calcio d'angolo che è un regalo nostro, Frey non mi sembra che abbia fatto una parata, grazie. E il terzo gol poi l'hai preso in 10, quindi ci sta tutto. Grazie, voglio Stefano, non ti incazzare più di tanto. No, ma non c'è problema. Saluta tutti. Sappiamo, guarda, quando si viene Roma, Milano e Torino sarà sempre così per tutte le squadre. Ciao, grazie. Ciao. Sei stripponente. Ciao Stefano, chi più chi meno. Sempre presente sei stripponente, poi ci sono squadre che vanno a Roma e non perdono. Vabbè, però poi non tutte perdono. Vanno anche a Torino non perdono. Vanno anche a Torino e vincono, no? Perché vanno a Roma e non perdono. Vanno a Torino e vincono, sì, vanno a Milano e vincono. Basta? No, anche a Milano. Ecco, vabbè, basta, perché se no andiamo avanti così diventa poi abbastanza noioso tutto questo, questa diatriba del tutto inutile e superflua di due squadre che insomma adesso... Posso mettermela come suoneria sul cellulare? Che cosa? Sto pippone genoano. Posso mettere? I need home to feel safe and secure. The family to feel at home. My heart is finally at peace. I need a man to touch, love, be alive, and see the future. L'avevamo promesso e dobbiamo mantenere questa promessa, no? E quindi dobbiamo parlare anche di questo, del wakeboard. Abbiamo detto qualche settimana fa, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, delle discipline sportive che dovrebbero contendere alla lotta il posto, non alle Olimpiadi del 2016, quelle che ci saranno a Rio, ma dalle Olimpiadi del 2020. Ossia, la lotta è una delle candidate ad uscire, ci sono alcune discipline che sono candidate ad entrare, potrebbe essere il baseball, softball, potrebbe essere il karate, l'arrampicata, lo squash, il wushu, che è una arte marziale, lo sport su rotelle, la lotta greco-romana che potrebbe rientrare, oppure il wakeboard di cui parliamo stasera. Ecco, ne parliamo con Michele Dell'Oglio. Pronto? Sì. Salve. Presidente della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard. Sì. Buonasera. Come va? Va bene. Bene. Inizia il lavoro. Quadriennale. Lei è un nuovo presidente o un presidente confermato? No, sono un nuovo presidente, sono stato vicepresidente uscente. Quindi una new entry, come si suol dire, caso. Sì. Vabbè, allora in questo caso volete presentare questo nuovo sport. Ce lo presenti? Abbiamo pochi minuti, però giustamente ci interessa capire bene qual è questo sport che vorrebbe entrare anche lui alle Olimpiadi, ho capito bene, no? Sì. E allora, dico subito, innanzitutto nel 2010 il cable è stato selezionato dal Comitato Olimpico Internazionale insieme ad altre discipline sportive che sono il baseball, il karate e il climbing. Sì. Allora, questo sport che in pratica si esercita tramite un impianto cable, che si chiama cable, che consente, che è un impianto elettrico formato da piloni posizionati in acqua. Ah, quindi non c'è un motoscafo che traina lo sciatore? No, ma difatti non è, allora, le discipline tradizionali che sarebbero le classiche, anche il wakeboard, sono trainati da un motoscafo, sì, a motore. Mm. Mentre in questo caso noi abbiamo un impianto che funziona con un motore elettrico. Pazzesca questa cosa. È costituito e formato da piloni che sono posizionati in acqua, sì, o sulla riva, collegati tra loro da un cavo aereo che scorre a circa 5-7 metri dal livello dell'acqua o del terreno, e a questo cavo sono agganciati altri cavi, in media circa 7 metri l'uno, che scendono verso il basso e che terminano con un bilancino a cui si aggrappa lo sciatore dotato di sci o tavola. Questa vedo durissima riuscire a capirla in questo caso qua. No, noi in questo caso qua abbiamo visto tutti i disegnini e quindi siamo in grado di aprire. Ma noi come siamo messi in questo sport? Ma siamo messi bene, abbiamo come federazione abbiamo la disciplina del cable wakeboard, diciamo che abbiamo già partecipato dal 2008 ai campionati internazionali. E questa stagione incentiveremo ancora di più la nostra medaglie presenza. Ne abbiamo vinte a livello internazionale, tanto per capirci. Medaglie ancora no. Però insomma è uno sport giovane, quindi insomma. È giovane, noi lo seguiremo attentamente, noi la ringraziamo anche perché siamo in ritardo e alla prossima, grazie. Grazie. 22:55 in questo momento. E Michele Dell'Olio, presidente della Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard. Ecco. Viva il wakeboard alle Olimpiadi. No, così stavo pensando, però ecco, no, ci sono arrivati comunque gli sms a manetta in questo caso. Ragazzi, non è che potete ascoltarci poi perché ci ascoltate, volete anche che vi salutiamo tutti quanti, perché diventa poi complessa la cosa. Allora dobbiamo già salutare quelle ragazze del bar Tabacchi, che già di Caserta, che ormai dopo un po' la terza. Ma l'altra parte è che questa cosa interessante, che Luca, che si occupa da soltanto da 2-3 anni, ignorante, hai trattato male del il Torino, tu che, no, tu ti occupi di 2-3 anni del calcio, sì, in questo caso. Cosa è successo? No, ci sono i tifosi del Torino che ovviamente sono indignati . E ti ha dato del ignorante in questo caso qua, sì, perché è vero. Svalutare gli scandali del calcio quando riguarda il Torino studia, sì, cioè, è vero. Roba qua. Ciao mitici, vi ascolto, fatemi un favore, salutatemi Gianni. Ciao Gianni, basta, adesso non vorrei più salutare nessuno, non abbiamo niente. Grande cuore granata qua dentro, no. Dai e vai, la trasmissione più granata della radiofonia italiana, che hai detto, viva il Toro, grande Torino, grande, sì, cuore. Hai già studiato? Ci ho messo poco però. No, guarda, invece se devo veramente salutare qualcuno, saluto ovviamente Roberto Scaltriti, che è stato qui direttamente anche questa sera con noi, che ha fatto il pugnetto. Hai fatto il pugnetto? Chi è che ha fatto il pugnetto? No, sembrava avesse fatto il pugnetto. Un attimo, c'era un punto nero. All'assistente al programma Giorgio De Luca, che ovviamente lui invece fa ciò con la mano, lui è più educato in questo caso qua, ed è ancora qui con noi. Scusa, volevo mettere anche un pezzo musicale perché intanto mi aiuta. No, metto quello di prima, no, non mi piace, no, mettiamo un altro, in questo caso qua. E poi dopo abbiamo anche Luca Cancellara, che ci ha aiutato tantissimo con gli sport che ci ha proposto, cioè la parte dedicata non al calcio, e curata da lui, lo diciamo chiaramente, e vogliamo dargli la responsabilità in particolare sulla mezza maratona che abbiamo presentato questa sera. Anche gli sciatori delle architetti e ingegneri, non male. In onda, ovviamente, ancora una volta Luca Gattuso e Sergio Ferrentino, che vi hanno accompagnato ancora questa domenica, perché però non è ancora finita, perché ne avremo ancora tante cose da raccontarvi, ovviamente. E al termine abbiamo anche un'altra trasmissione, cioè quando finiremo esatto, prima o poi. Esatto, c'è il GR a seguire, e poi c'è Mebius con Federico Pedrocchi, proseguono i programmi mitico Federico Pedrocchi su Radio 24. Dai vai, torna domenica prossima alle 16:30, perché? Poi alle 22, poi la domenica dopo alle 16:30, aspetta, che ci abbiamo già un altro, noi finiamo sempre la sera ormai con le interviste all'allenatore, teniamo minuto, via. Ecco qua. Punta, forse i tre difensori sarebbero. Io credo questo che è Costa così. Curta che fa la domanda a Andrea Azzoli. Atteggiamento difensivo da parte di tutta la squadra che ha permesso al Genoa di tirare in porta 12 volte. Ok, allenatore della Roma. Andreazzoli? Ma guarda, ah. Billy, tu forse che fai potresti stasera? Spiegarla meglio di me, perché che modi sono, scusa? Ne ha passate tante, ne ha viste. Quando una squadra subisce una serie 3-4 calci d'angolo consecutivi, sì. E tutte, pensa tutte la credibilità che questo signore dice, ragazzi, ritmo, più veloci, più veloci, dai, correre, correre, perdi anche dai, 16 secondi è finito, poi basta, però, bene, aspetta, aspetta. Sapevamo benissimo come sarebbe presentato il Genoa. Sapevamo che potevamo avere di subire il rischio di andare in inferiorità numerica in mezzo al campo. Nissan crede che la tecnologia sia veramente innovativa solo quando è per tutti. Scopri Nissan Qashqai 360, il primo della categoria con Around View Monitor. Quattro telecamere con vista dall'alto a 360 gradi per avere tutto sotto controllo. Nissan Qashqai, a marzo il diesel è al prezzo del benzina, a 16.950 euro. Il momento è unico. Offerta soggetta a condizioni. Info su Nissan.it. Nissan, innovation that excites. Sono le 23.